A monte c'è la fine di un amore, si resta a casa per due giorni o tre, si cambia macchina o televisore, si smette con il fumo ed il caffè, si va in palestra e a cena con gli amici, si va al biliardo e al cinema d'essere, si fa finta di essere felici, si ascolta mille volte e penso a te, e si butta via le fotografie e le cianfrusaglie per la nostalgia, non si dorme mai prima delle tre. Poi che non c'è più lei, quando ci si sveglia di riflesso ormai la tua mano va sulla sua vestaglia, e se prendi il via vai di nostalgia, nostalgia, nostalgia. A monte, come ho detto, c'è un amore, di quelli che ti passa sopra un tram, di quelli che ci vuole anche il dottore, la chiromante e soldi a volontà, e il cuore vuole ritelefonare, però la mano è saggia e non lo fa. Vai di nostalgia, compri un gatto che cerca le carezze, poi ti accorgi che di carezze ne hai più bisogno te. Cerchi compagnia, una pur che sia, e paghi una ragazza che ti ascolta ma mastica il chewing gum e fa finta che vai di nostalgia, di malinconia. Adesso io faccio come te, piango per un film e mi butto via in questa città sporca e indifferente, che la fantasia e felicità we